c'è il sorso, come si chiama, non mi ricordo più i nominativi, un altro Giulli. C'è Vanino di Sorso e Joker dalla strada presso. Ciao Eugenio, buonasera. Buonasera Vanino, buonasera. Come va Eugenio, come va? Sono Gavino, Ah, Gavino, da dove? Porto Torres, però da dare il sorso. Gavino, mi conosci, mi conosci. Gavino, sì, se è quello che sto dicendo io, sì. Sì, sono io. Come ti arrivate oggi? Fa un passaggio. Senti un po' oggi, com'è? Ehi. Molto fissi, Gavino, molto fissi. Radio. Gavino, quello che sto dicendo io, papà, l'ha fatto questo? È radio, oggi. La radio è perfetta. La radio va perfetta, cioè, perfetta. Non c'è problema. Sto dicendo, tuo padre lavora al posto. Esatto, lavora al posto. Ok, va benissimo. Dai. Eugenio, come ascolti adesso? Allora, adesso il segnale è 7 e la radio è un po' più chiara. Adesso so, per me che è normale, dai. Ho aumentato qualche watt. E la radio è più chiara, il segnale è più forte, dai. Ok, avanti Gianni. Io ho messo a posto questo microfono perché non toccavano le lamelle. Erano le lamelle che si erano abbassate, non toccavano, quindi l'ho dovuto aprire e rimettere le lamelle. Spero che vada bene. Questo è il Super Sidekick. Vanno bene già. Me lo vedi? Ce l'ha il gemello, eh. Salvi, ti ha ripiazzato tutto? Sì, ho messo attrezzatura di fortuna. Sì, vabbè. Ma portatore c'è ancora la tua antenna, o sbaglio? No, non esiste più la mia antenna. Ho installato roba di fortuna e niente, sono in overrun. Ah, ok, va benissimo. Tu avevi anche il K, vero? Scusa, Gianni? Avevi anche un K, tu, se non sbaglio. Positivo. Ma ce l'hai ancora? No. Comunque riuscivi bene. Lo so. No, quella roba è tutta Siracusa. Quella roba che c'è voi è tutta Siracusa. È ancora funzionante. È ancora in radio. Va bene. Ti ripiazzi piano piano. Comunque questa va bene la radio, e niente da dire. No, va bene. Non devo pensare altro. Oh, questa radio che se mi state dicendo che è buona, rimane questa, però ho un bell'alimentatore che spinge tanto. Guarda Gabi, gli alimentatori puoi usare anche quello da 50 ampere, quelli per computer vanno benissimo, io ce l'ho e va alla grande, quello da 50 ampere l'ho pagato una trentina di euro, è una bomba. Troppo rumorosi. La ventola è troppo rumorosa, ce l'ho anch'io, ma la ventola ci uccide, troppo rumorosa. No, già, questo alimentatore qua è bello, questo 40 ampere ed è grande quanto la radio. Non lo stai vendendo, Gabri? Assolutamente no, l'ho cercato apposta questo alimentatore. No, questo è un alimentatore che non darò mai, anche se dovrò lasciare la radio, questo qua mi serve per altro. Ah, l'ho capito. Andate. Dai, riprendi Tony e poi fai girare per Vanni. Anche io ci ho fatto il torre sempre nell'armadio, però. Se andate a guardare con lo smitter, il ventilatore, cioè la ventola, poi c'è anche la centisigla, era poco di cosa, che. E la ventola è silenziosa, però, grazie a Dio. Non è così casinista. Ok, avanti Vannino, che si chiama il Jolly Bruno Usoco. No, ma col mio è silenzioso. Ma quello che tu vuoi per me no, non ce n'è a ventola già. No, quello lì no, quello c'è il trasformatore. Quello che mi ha dato il coso Ginko, c'è la ventola, capito, da freddamento. Ed è silenzioso, c'è la CD sigare, c'è tutto, lo smitter, è una poco di roba. Vanino da Mullato. Si è staccato. Riprendi Joker. Sì. No, l'alimentatore io penso sempre che la corrente è la prima cosa che ci vuole in un impianto. Ragazzi, non vi devo lasciare che mi arriva la gente, c'è il cane imbizzarrito. Ok, dai, ce la sentiamo alla prossima. Buona serata, ciao Gianni, ciao Tonino e ciao. Eugenio, alla prossima. Ciao, ciao Gabi, ci sentiamo, dai. Va bene, dai, avanti. Ciao Gabi, lo correggi, ci sentiamo. Avanti Eugenio. Ciao Gabi, ti intendevo, mi ha fatto piacere. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao, ci sentiamo, Gabi. Avanti. Siamo qua, guarda. Uscito da lavorare adesso, mi sono fatto la luce. Ho acceso l'apparato, ma l'apparato era già acceso la stamattina. Oh, yeah, yeah. Quindi Torino, ti sono mai arrivato così forte come adesso? No, sinceramente. Avevo l'antenna, ripeto, dove c'avevo prima, poi l'ho spostata in 3-4 metri. Adesso mi sei, ho cambiato la cantenna, però avevo la matta vaccina, ma per carità è stata messa male, me l'ho regalata, ho messo l'antenna nuova, la Veno, un rechi come antenna, però ti dirò, io ti ricevo video, carte, sentivo 8 picchi positivi, 9-9-5 va bene, non ti ho mai ricevuto così, prima prima mi arrivavi, me lo ricordo messo, Santiago 6-7, capito, adesso mi è più forte. È buono, vai, buonissimo, va benissimo, va benissimo. E che anche nel messo ci può dire? Certo, ho detto poco fa, la Venom, che cosa una cazzata? Non ti ho capito, no? La Venom, 46 ore di antenna, 5 ottavi d'onda c'è scritto, ma l'antenna così è. Però esce bene, Carlo, mi sentono bene. C'è anche Franco California, uguale. No, va bene, non ho capito, ho capito. Oh, ci comprendo. E vabbè, dai, l'importante è uscire bene e sentirci. E cappa. E tu che apparato stai usando a proposito? Stai usando bene come radio? Io ho il K con l'MC60. Già va bene, a voglia. Vabbè, qualche spinta già te la dà, quello lì pure, dai. Sto uscendo con, aspetta, ti dico subito, con 10 watt. Buono, buono. Ma prima quei tipi non ce l'avevi quello lì? Prima? Tempo dietro, non ce l'avevi quel baracchino? Sì, ce l'ho da un po' questo qua adesso, ce l'ho un po'. Ora non so se quando ci sentivamo avevo questo qua. Sì, ma penso di sì. No, ma poi con la tenere c'avevo io, dai, ma era messa male. Non è che ci ricevono tanti forti. L'unico che riceveva forte è sempre Gianni e basta, poi il resto. Adesso mi sono aumentate parecchie persone, però Gianni è sempre l'unico che mi arriva più forte. Avanti Gianni. Perché siamo anche più vicini, dai. Anche quello. Adesso puoi dire, ho cambiato apparecchio. Il segnale magari diverso, anche perché questo dà più watt, capito? Sì, prima tu quando sentivi Eugenio c'aveva un altro apparato prima, c'aveva il Galaxy. E tu lo sentivi col Galaxy, poi ha cambiato, ha preso il Kenwood, capito? Quindi col Kenwood dà più watt e tutto quanto. È normale, poi come scalda aumenta sempre di più, io l'ho 140, l'ho avuto, quindi lo so come. Ma io avevo anche il radiale pure alla Kaiser di Cane, miei Gianni. Quindi radiali con l'attacco del radiale che era mezzo rotto, facevo contatto, era tutto messo male, capito? E il segnale era più basso leggermente. Adesso con questa antenna messa nuova è diverso. Ah sì, forse è modulato col Galaxy, è vero, ha avuto anche il Galaxy, è vero, è vero. È probabile che si è sentito quando avevo il Galaxy. Penso proprio di sì, Gigi. Comunque, sì, ti ascoltano a Pio Pio, adesso c'è una radio superiore, radio 5 perfetta. Prima era radio 2, proprio masso, tanto io sono negativo a forse proprio. Diciamo che hai migliorato tu e ho migliorato io con l'antenna che ho messo nuova. Purtroppo l'antenna, vabbè, me l'ho regalata, me l'ha messa male. Io ho cercato di aggiustarmela, però per carità. Niente, un'altra uguale non l'ho trovata, se no me l'avrei comprata anche la matta 1, la matta 5 me l'avrei comprata. Purtroppo non le trovo e pazienza. Quella l'ho smontata tutta, fatta a pezzi, cioè a pezzi nel senso elemento per elemento, a chi serve per pezzi di ricambio te la darebbe volentieri. No, io ho un'antenna che per il momento va benissimo, è la Game Master, la conosci? È praticamente un dipolo in verticale. No, non la conosco. Sono rientrato, eh. Ok, va bene. No, praticamente in vetroresina. Gianni Lottorino l'ha avuta. Si chiama Game Master, senza radiali. Ah, sì, la conosco, allora, conosciuta. Quella che si è truccata a me. Avanti, Gab. Sì, era un falso allarme. Non era gente. Non era gente. No, io devo dire che questa antenna qua me l'hanno consigliata e infatti la stavo cercando, ho trovato uno che ce l'aveva e l'ho preso. Però devo dire che va bene, devo dire che va bene, bene, bene, bene. Gianni, per caso ho picchi positivi o no? O sono costante? No, sei fisso, fisso, fisso. Anche da parte mia. Da te, Uge, costante? No, perfetto, però ogni tanto lo stavi fischiando, eh. Non so se stessi toccando, però ogni tanto lo stavi fischiando. Fischiando, fischiando, fischiando, fischiando. Sì, sembrava che c'era una piccola porta anche sotto, più o meno. Ma no, adesso sta andando bene, assolutamente bene. Non lo so, non lo so. Aspetta un attimo, che mi metto un po' di compressione. Guarda un po'. No, va benissimo, va benissimo. Tu, Gino, c'hai picchi positivi, belli proprio. Vabbè, io con questo apparato qua da te ho aumentato come segnale, Gabi. Sì, 9,5 già, sì, 9,5. Fa un passaggio per avere sempre positivi. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, sì, sì, sì, hai picchi positivi già. Hai picchi positivi, non tanto però va in positivo. Hai attaccato già. Cosa attaccato? Non ne ho. Ma non è dire che io quando chiudo le fighe i suoni mi sentivo come spaccato. Adesso i 9 viti le fighe chiuso. Gianni, fai da bravo. Giovanni, sto uscendo col cobra adesso. Ah, se ti dico che non sono attaccato col cobra non posso attaccare perché c'è già con 30 watt. Ah, 30 watt dove adesso? Beh, qualcosa ci ha messo a fatti. Se attacco con 30 watt mi brucia tutto. E comunque ho dato per segnare più forte giustamente con le fighe chiuso. Ho già te lo ricordi quando attaccavo la porta torre. Eia. Era assurdo quella fare là. Io ho avuto il Galaxy 1000, non so se l'avete conosciuto, la buona anima di Gatto Silvestro, Porto Torres, mi arrivava a fotoscala, un casino, che allora ero tipi, abitavo un'altra casa, manto da uno sul tetto, era ben piazzata. Quelli erano tipiche. Io ho avuto il Jumbo Aristocrat 600 watt in AM, 1200 in AM. Il mio era proprio 1000 in AM. Come parliate di minuti, non ti guardi. Io modulavo nel 91 sul 12. C'era Giampaolo, insomma, un saccaccio di gente. E toccai tutti quelli lì, io me li ricordo bene. E mi sbrizzolato. Io pompavo con quello per trotter. Era 1000 watt in AM. Il mio Gabi accendeva, sì, spegneva le luci in casa, mamma mi diceva cosa, perché spegneva le luci, le abbassava. Già, io quando mettevo in banda laterale 2000, la lampadina la sua mi diventava, passare dai. Beh, a quei tempi si poteva fare perché costava di meno la luce, così con c'è gara. Ma potete passare voi in banda? Provate a passare in banda. Dove, USB o LSB? LSB. Ok. Chiudi lo square, c'è una telefonata, è come se ti stessero telefonando. Avanti. Ti ho chiamato io, G. Avanti per chi chiama. Sì, non è avuto di entrare il pesce, dai. Capì, io ce l'ho il coso, il partner, l'ho tutto completamente restaurato, l'ho riverniciato, gli ho cambiato il filo, ho fatto un uovo di zecca. È bello il partner, quello che avevo io l'avevo preso da una persona e quando schiacciavi la portante sembrava che dava una martellata. Bello, ma la modulazione col microfono è assurda. Questo poi è quello che ha la parte di superiore cromata, capito? Questo è il re di Turner, il Super Side Kick. È come quello mio, nero con la parte di sopra cromata. Sì, sì, il Turner più 3 Super Side Kick. E io ho il gemello uguale. E io ho il Turner più 3 normale e non rende con questo apparato. Magari ci sono i fili come l'attivale, però un giorno l'ho provato e tutti mi hanno detto che faceva schifo. Forse c'è troppo alto qui. No, l'ho provato, l'ho abbassato, l'ho sollevato, a parte che l'amplificazione non faceva. Ho sbagliato sicuramente collegando i fili. Ma che radio stai usando adesso? L'ho cambiato la capsula, quello di G. Capsula l'ho fatto in due, il che vuol dire così? Dimmi già. Mi sembra che l'avessero cambiato la capsula con l'apparato lì, con il microfono. Ah, se tu non lo conosci quel microfono, come dalla provenienza, cosa visuale? E io l'ho sentito frequenza, se è quello che c'aveva quel tipo, non lo so, gli ha cambiato la capsula e usciva peggio di un microfono normale, se non usciva bene. No, assolutamente no, stai sbagliando. È tutto originale, quello che ho io proviene da un radioamatore di Olbia, è tutto originale. Non lo so allora, io mi ricordo che c'era uno di Porto Torres che siccome la capsula non funzionava gli ha messo un'altra capsula ma non andava bene. Poi non so se sia quello, non ti sto dicendo che sia quello lì però. No, assolutamente. Ora io l'ho prestato, non ce l'ho qua, solo l'ha premesso. Questo qua c'aveva, quando me l'hanno dato, il filo un po' rovinato, si stava marcendo, là. Gli ho cambiato tutto il cavo, lo spinotto, l'ho tutto riverniciato, fatto perfettamente bene, cazzo, cioè non si vede una gocciolatura, niente, fatto bene. A me piace questo qua, piace molto l'MC60, lo stavo cercando, come l'ho trovato me l'ha giubilato subito, è nuovo, sembra che uscivo dal negozio. No, già esce bene, l'MC60 ti fa uscire bene, è forte come microfono, però c'è una radio particolare, capito? E magari il microfono si vede anche adeguare alla voce, capito? Ma io esco bene perché si adegua la mia voce questo microfono. No, magari è troppo alto forse, non lo so, forse è alzato troppo. Però va bene, dai, questo è accettabile. Ma è troppo alto? Il microfono. Ho provato a spostarti dal microfono, forse è troppo vicino. Sì, sono a due fanni al microfono, c'è un po' lontano, Non è. Poi qua è fisso, mica posso regolare l'amplificazione. Ecco, dal macchinino qui c'è un cursore. Guarda. Si regola il mic. Ah sì, dall'apparato, non dal microfono. Vabbè, l'apparato è a metà. Magari è troppo forte quello, capito? Non lo so, non lo toccare perché magari poi magari non va bene ad altri, io non te lo voglio far toccare. Prova a metterlo a zero. No, non è tocco, lascio tutto così, io non sono di quelli che passano. Me l'hanno regolato così e così lo lascio. Ma perché è fastidioso? Cosa? È molto compresso così. E infatti se si può chiarificare la radio, o è troppo vicino parlando, oppure la modulazione è troppo alta. Io lo sento bene, Eugenio. Guarda, l'ho abbassato adesso l'ho abbassato. No, guarda adesso come si sente bene. Molto meglio. Ma lo vedi adesso che si sente bene, Eugenio? Sto dicendo, adesso va meglio. Ha voglia, è più chiara la modulazione, prima era troppo compressa, era bu, capito? Vabbè, adesso va bene, la distanza è sempre quella. Vabbè, adesso va bene, mi confermate, sì? Ehi, a un pelino l'hai abbassato, un pelino basta. Sì, l'ho abbassato leggermente, proprio un millimetro, vai. Sì, ora è perfetto. Sì, perfetto. Ok, adesso va bene, lo lascio così. E oggi, scusa se te abbassano un'altra pena. Lo abbasso un altro cuscino. Ok, abbassa, vedete un po', guarda un po' se va meglio così. Secondo me così va bene, Gianni. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma si sente che è amplificata, sì? Sì, è bella la radio, solo che quando è troppo alta va quasi a distorcere, capito? Diventa troppo compressa. No, già, io la ascoltavo bene prima, proprio come radio amplificata. Adesso in vero un microfono quasi normale, è chiaro, sì, la modulazione, ma non è forte come era prima. Sì, ma inutile che sia forte, non si capisce niente. Ma io lo capivo abbastanza bene, chiaro. Se volete il registro lo faccio sentire, cavolo. Secondo me nella postazione mia qua adesso mi arriva bene, Eugenio. Ma bene, bene, bene. Non sarà perché sono più distante io, cosa ne so? Sono già un po' negativa la parte sua. Perché io non sono più distante, Tony? Prima era troppo compressa la radio, poi come l'ha passata la prima volta andava bene. Va bene, come la bassa troppo andava bene. Ma già, tu sei alto, tu sei favorevole, io sono negativo, ho detto da poco fa. Quindi quella spinta leggermente in più per me era bellissima come radio. Poi, ovviamente non abbiamo tutti e due la posizione uguale. Sarà per quello che lo ascoltavo bene prima. Vabbè dai, lo lascio così. Mi ascolti tu, sì? Perfetto. Voi mi ascoltate bene, sì? È perfetta, Eugenio, è perfetta. Allora già va bene così, dai, no, non è un problema. Forse quando magari sollevo un po' la voce che spinge un po' di più, però devo fare, vabbè, la distanza è sempre 2 palmi. Sono abbastanza distante dal microfono. Tu considera che io sono col microfono originale a 5 centimetri. Ah, ok, dai, allora se va bene così lascio così, non è un problema. Già mi confermo. Sì, a me va bene, io gliel'ho detto, come lui l'ha abbassata, prima era troppo compressa, poi come l'ha abbassata l'ha chiarificata di brutto, proprio chiarificata, basta un pelino, mio G, basta un pelino, con l'unghia lo abbassi appena appena, e... perché se lo tocchi troppo, poi o abbassa troppo o alza troppo, capito? Poi quei microfoni lì hanno una prerogativa, che se tu parli troppo vicino, ti rovinano la radio. Sia quello e anche se è troppo alto ti rubina la radio, invece regolato così va benissimo. Ok, già l'ho abbassato poco a poco, va benissimo così, distanze sono distanze, se mi ascoltate bene va bene così, ok? Tony, tu mi ascolti bene, sì? Sempre bene, Eugenio, sempre perfetto, ottimo, radio segnale. Ok, allora non c'è problema, lascio così. In ferie sei Eugenio? No, negativo, negativo, sono uscito alle 7, ero sull'Eurocargo Sicilia. Ho caricato l'Eurocargo Sicilia e quella lì parte alle 7. È positivo. Io sto aspettando gente, ma cuffia. Poi, stanotte se c'è qualcuno rientra. Vediamo un pochino com'è. Gabi, ma il tuo che cos'è? Un pastore fornese il cane? Uno scemo fornese. Perché? Sì, sì, sì, è un pastore fornese. È un pastore fornese di Orune. E te che siete un male, per la guardia quelli sono micidiati. Ho capito. E di mio genio, o la mia compagna che avevate preso tutto lo sarto poi. Com'è, bravo? Sì, sì, è tranquillo. E la tua compagna cosa lo sa? È amica di tua moglie. No, non lo sapevo. Come si chiama? Ma come fai a non saperlo che veniva anche a casa tua oggi? Ma rimambettoti, sì. Rimambettoti, sì. Ah, sì, sì, sì, sì, è vero, è vero, hai ragione, Uglia. Gabri, c'hai ragione. Sì, sì. No, sono bravi. Il mio è molto, molto bravo. Molto bravo in tutto. L'unico difetto che ha è che salta tantissimo e poi già per la guardia tutti i cani sono bravi, basta che appaiano, per la guardia è bravo, perché sai, il ladro quando deve entrare è come un qualsiasi, diciamo, il muratore che ha i suoi attrezzi del mestiere, quindi sa anche come affrontare il cane. però sì, antideterrente, un cane antideterrente che incute un po' di timore, dai. Ehi, vabbè, territoriale come tutti i cani. No, io c'ho... Sì, sì, l'avevo visto. Anche quelli di Eugenio sono quelli, Sì, io, vabbè, quelli di Eugenio già li conosco, c'è cioè uno ne conosco, un dog argentino, perché quando passavo lo vedevo, quando passavo gli facevo una consegna in una villa di vicino. E ti morsicava le gomme. No, non usciva fuori, la greca. No, il dog non esce, posso lasciare il cancello aperto, si siede davanti e non esce. L'altro malizio esce, se l'altro esce, minchia, focaggi. E dillo a me che sto battagliando già, Eugenio, dillo a me, che questo qua lo trovo in giro, chi salta 2340R. Scusate che io faccio cuore di perché mi devo preparare qualcosa da mangiucchiare. Ok, dai, lo proseguo, se qui tardi ci siete, provo a cenere, se c'è qualcuno va bene, sono pazienza. Ok, ciao Eugenio, stammi bene, buon carico, lo fai, ciao Gabino, e ciao Gianni, statevi bene, lo proseguo, ciao ciao. Ciao Tony, ciao. Avanti oggi. Ciao Tony, ci sentiamo. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Tony, ci sentiamo alle prossime. Dopo il tappo della radio qua è sempre accesa, adesso mi garage dopo vanno via questi. Se entrate ci sono. Ok, d'accordo, sono la finalità. Già ne uso all'inizio del passaggio, non sei quasi uscito dalla radio. Ok, ciao di nuovo, a cuore tango, ciao ciao. Avanti, Gabi. Già dai colpi di portante ma non esce a volte. No, l'ho fatto io apposta, ho mollato per vedere se stavano parlando. Gabi, c'è faccia il furgone. Perfetto. Dai, mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno. Dai, mi fa piacere. Non ho fatto una spesa. Allora, dai. Io. Ma avanti, Eugenio. Stavo dicendo, sempre c'è il furgone. Io a voglia. Mi senti, Eugenio? Ho detto a voglia. Sì, già ho sentito. Ma stai sempre lavorando col furgone, sì? Sì. Sto sempre facendo, diciamo, attività col furgone. Faccio attività col furgone. E tu già? Io, Gabi, sono in pensione. Mamma mia, in pensione, pensionato. Ui. Quanti anni hai tu già? 63. Dai, quindi stai facendo... Sei in pensione ma sto lavorando in casa. Vabbè, adesso sono un po' messo male, Gabi, perché mi devono operare una gamba, c'è un femore che mi si è consumato, non posso più camminare, sto camminando con le stampelle, sto aspettando che mi operano. Non è che mi stia muovendo più di tanto, se no prima pescare, un sacco di roba. Se le mie attività che mi facevo il sabato, me le stavo facendo, capito, anche in giornata. Ho capito. Oia. Vabbè, no, meglio che me ne sia uscito. Tanto mi pare che la cosa non è andata di meno, hanno cambiato anche nome, boh, non so cosa sta succedendo. Oh, sono tutti contenti, io vado lì a fare la spesa adesso, già. Sono tutti contenti. Davvero? Ehi. Sono tutti contenti, dice che sono meglio. Senza di te. E io sono meglio senza di loro, non mi pare meno che non me ne devo pigiare o mangiare. Certo. E lo so che sei meglio di loro, la casa di famiglia. Però l'uomo se non fa attività è un uomo perso. Ma io le cose da fare ce le ho, c'ho diversi hobby. Quindi non è che sono abbastanza occupato, capito? Poi esco con gli amici e cose, quindi non è che stia fermo. Poi c'ho anche gli animali, non so se li hai mai visti, c'ho i pappagalli che parlano, ne ho tre, e in più c'è una razza di pappagalli, le calopsite, quindi devo anche curare quelli, eccetera. Le calopsite sono la mia compagna, che se le cura lì, però gli altri, i loro ce li ho tutti io, capito, ce ne ho tre. Ragazzi, sta arrivando il tempo cattivo comunque, stanotte la tua pioggia. Che rottura, a caridai. E oggi cosa si dice al porto? Tempo cattivo. Tempo cattivo, Gavri, tempo cattivo. Anche oggi ci hanno avvisato, domani fanno tutto il giro da Levante perché sta entrando il maestrale forte, già stanotte. Quindi domani le navi fanno tutto il ritardo. Ma pioggia, ha dato anche pioggia, mi dà, no? Ha dato anche pioggia. Sì, sì, vabbè, oltre la pioggia forte, sì, ma c'è sempre anche il vento, che rinfresca anche parecchio. E vabbè, dentro casa già non è vasi, vabbè, sabato e domenica dentro casa già non è vasi, non piove dentro casa. Quello che rompe le scatole che fa danno. Speriamo che scenda tranquilla e non con le bombe d'acqua in fase di danno, ma oh, ragazzi è anche tempo, dai, siamo a novembre, già mi ho gatto la male che corsa ancora, non va bene. Ma ho visto su internet questa grandinata, Bariani, Cantone Bariani, ha spaccato i vetri della macchina addirittura. Non a fare danno. Speriamo che non grandini, che un casino si grandina. Devo finire il garage per il camper, se no magari mi ammacca il camper, la grandine. Ho visto il continente, ha fatto questa grandinata a Mariani Gantoni, ma ha spaccato un vetro della macchina addirittura. Se fa quel tipo di grandine è un casino, ragazzi, è un casino. Una volta a Porto Torre c'erano tutte le macchine bombate, per fortuna il giorno io ero in permesso ed ero a Sassari, non ci sono sceso a Porto Torre, ma è venuto un cliente, ci ha fatto la macchina a bombardare. Perché se la spacca la macchina, la grandine è bastarda. E tu, se cioè, ti mille a capo un marraggio del genere. Il problema è che davvero fa danni perché adesso pensate a chi coltiva, cioè alla gente che vive dal terreno, o anche pescatori, a tutti, fa danni irreparabili. Brucia tutto, brucia. La roba coltivata la brucia la grande. Vabbè, purtroppo la natura non decidiamo noi. La forza della natura è micidiale, poi in questo periodo se la stanno affrontando in tutti i colori, guarda, meglio non pensarci. Io mi ricordo la volta stavo facendo il sorso di vidriata, stavo andando a lavorare, che ha fatto quella tromba d'aria, mi nega giù di un albero, Gavì, davanti alla macchina, ho fatto in tempo a saltare, me ne ha buttato giù tutte e due le pattane dalla macchina. Però ho continuato perché oltre il vento e cose c'era una pioggia allucinante, sono arrivato lì alle curve di Monterraso, lì mi è arrivata l'acqua sopra il cofano della macchina, non ti dico altro. Sì, fa danno, io quando lavoravo, guarda, io sono stato per i mesi lavorando a San Nazaro, a Pavia, il tempo brutto che ho visto in quel posto, era allucinante, proprio tempo brutto. Casino, la grandine quando scende così distrugge mezzo mondo. Scusate un attimo, chiamo suonato. Io capivo un amico che lavorava a Alessandria, mi ha detto quando mi affacciavo qua vedevo il panorama del mare e cosa. Alessandria non vedevi altro cazzo che nebbia e pioggia, non si vede altro. Noi qua stiamo male in altre cose, però stiamo bene a livello, diciamo, meteorologico, cioè non ci possiamo lamentare per quello. Va bene ragazzi, dai, io vado a cenare perché ho un po' di fame e devo cenare per forza già. Eia, quella roba là come sta andando, Gabi? La glicemia come? Insulina, c'ho il sensore, niente, faccio l'insulina e si tira a campare già. Diciamo la stai tenendo, diciamo, giusta oppure ce l'hai alta in questo periodo? No, grazie a Dio riesco a tenerla sempre molto stabile, la tengo. Sì, non mi posso lamentare, a parte quando a volte sai che non fa effetto, cioè non fa effetto, devo fare un po' sbagliato. sbagliato oppure dopo l'hai già fatta e ti sale un po', poi te devi rifare. E tu? Io già ce l'ho abbastanza regolare, a volte troppo bassa anche, a volte mi scende a 96, 94, capito? Però diciamo che la mattina solo 156, 148, dipende. Però poi si stabilizza e tutto il giorno ce l'ho normale, dai. Dipende sempre da ciò che mangi, capito? Lo sai, no? Se fai qualche, diciamo, adesso puoi dire c'erano i pappassini in questo periodo e la mia compagna li voleva comprare, però lascia perdere, tanto se poi li compri li mangio e mi vado ad alzare la bici mia. Sì, a me non mi interessa, io mangio già. Io mangio, faccio un'unità in più, ma mangio e non mi interessa. Io quando devo mangiare il dolce non lo mangio, quando faccio un'unità in più, intanto non risolvi niente, non risolvi nulla. E ce l'ho sempre quasi normale. Addirittura io ce l'ho a volte bassa, bassa, anche a 50, 43, e l'altro giorno era a 30, 35, e poi il massimo che è 180. Lo so, ma tu c'è il dosatore attaccato? No, ma la gestisco io, però col sensore te la gestisci come vuoi, capito? Che c'ho con un amico. Ma dove stai chiamando, dove stai parlando, Gabby? Scusa, Luce. Ho detto che c'è un amico che sta a vedere come funziona l'apparato. Da dove stai chiamando, dove stai parlando? Sto parlando dalla, diciamo, strada provinciale 25, strada di Sorso. Ok, tu già? Io da Sassari. No, che volevo vedere come funzionava l'apparato, dai. Che non ci credo e stavo parlando da anche a Sassari. Va bene, dai ragazzi, vi devo salutare che è arrivata gente. Ci sentiamo, ciao, dopo mi ha fatto piacere, vai, entra più spesso. Ciao! Ma Eugenio, un altro in più ne avevo, 10.000. Ciao, ci sentiamo, dai, convincilo di prendersela anche lui, perché almeno c'è qualcuno in più. Avanti, capo. Ehi Eugenio, tutto ricambiato. Grazie della chiacchierata. Della chiacchierata, sì. Adesso entrerò spesso. Un saluto, un abbraccio e una buona serata. Ciao Gino. Vai, contraccambio tutto. Ci sentiamo alle prossime. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ci sentiamo oggi. Avanti, capo. Ehi a Gianni. Adesso attacco anche io che per fare qualcosa. Deve venire gente. Così entro un po', mi faccio la doccia e facciamo, dai. Ciao Gian, buona serata, ci sentiamo alle prossime, ok? Io già sono in radio, ciao, sentite anche il cane che sta salutando, saluta anche a lui. Ciao Gabi, ci sentiamo, grazie per il questo, ciao. Ciao Gian.